Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 9, lezione 8. Noi stiamo cominciando a leggere nella fondazione spirituale della Kabbalah, purificazione interna. E struttura il primo e terzo paragrafo. Il primo paragrafo non c'è nessuno altro accanto a lui. Il terzo paragrafo, lasciatemelo dire in questo modo. Ci sono cose in questo mondo esistenti dall'inizio per aiutare gli uomini a portarlo fuori strada dalla sua retta via, per tenerlo lontano dalla santità. Ed i vantaggi di questi respingimenti sono che gli uomini dovrebbero ricevere a modo loro da questi rifiuti la necessità e il desiderio totale che il Creatore possa aiutarlo. Vede che non c'è altro modo per sopravvivere. Il primo paragrafo ci dice che non c'è altra forza contraria al Creatore. È tutto nella tua concezione. Vediamo altre forze, ma questo è il desiderio del Creatore. In un certo modo è il suo desiderio che noi abbiamo difficoltà. Le difficoltà sono tanto importanti quanto il successo. Solo che noi abbiamo una percezione diversa, ma sono tutti segnali, segni, e sta a noi come gestirli. Questo metodo è chiamato la mano sinistra spinge via. Confronta questo con una madre che allontana il suo bambino. Quindi il bambino può anche imparare a diventare indipendente. La mano destra tira e la mano sinistra spinge via. Entrambi appartengono alla correzione. Il primo paragrafo racchiude l'intera Torah. La sinistra spinge solo via, quindi ora tu puoi crescere. La destra è il lato dell'attrazione, amore. Entrambi sono una correzione. Quando ti ammali, la mano sinistra è al lavoro. Il Creatore ti sta allontanando, così ora hai l'opportunità di imparare e sentire come Egli ti sta spingendo indietro. Entrambe le forze non sono tue, loro sono del Creatore. Vedi di non dire mai che è tu, è dato a te perché tu possa arrivare alla comprensione, all'esperienza. Entrambi hanno uguale importanza. Spesso il rifiuto è più importante dell'attirare. Quando ti senti rifiutato e puoi imparare da esso. rimanere positivo e avere fede, allora il rifiuto è una lezione meravigliosa. Si sente tanto spesso la parola peccato. Cos'è il peccato? Il peccato è il desiderio di ricevere proprio per il tuo bene. Quando vuoi qualsiasi cosa solo per te stesso. Questo è peccato. E quando tu sei in questo atteggiamento, tu sarai spinto via. Ma c'è anche l'opposto. Tu puoi anche avvicinarti al Creatore. Lui ti spinge anche via. Confronta questo con una madre che sta lasciando andare suo figlio per diventare indipendente. Il Creatore ti ama, lui prova affetto di te come noi che a volte diciamo a un bambino, lei, lui è adorabile, quando proviamo molto amore per il bambino. E suona strano, ma poiché ci ama così tanto, lui ci spinge via. La sua forza è molto potente. È per amore che ci lascia andare. Ci spinge via, così ora possiamo crescere, diventare indipendenti. Così possiamo sviluppare un amore indipendente per lui. Una madre che ama il suo bambino, lei fa lo stesso, lei ama suo figlio, ma lo lascia andare a scuola, lasciare la casa, eccetera. Anche questo è tutto necessario per insegnare a suo figlio di diventare indipendente. Nel modo in cui il Creatore fa questo con noi, e noi facciamo lo stesso nella nostra vita terrena. Prova ad accettare questo. Solo allora l'amore può diventare un amore indipendente e non un amore forzato. Essere consapevoli che questo ha a che fare con le leggi dell'universo. Certo che io ho la tendenza a resistere, a non lasciarmi andare, proprio come tutti gli altri esseri, ma sono inclinazioni orribili, non hanno nulla a che fare con le leggi dell'universo. Tu devi superare queste inclinazioni per venire in conformità con le leggi dell'universo. L'amore non conosce i confini. È un modo di dire i confini. L'amore non conosce i confini, è un modo di dire. Ma in un certo modo ci sono confini più belli. La mano sinistra è il lato della limitazione. E quando svolgo questo compito, il Creatore può fare la linea di mezzo. È il processo di spingere via e di attrarre. Per questo motivo la luce si sviluppa. La luce è una forza di guarigione. È l'aiuto che io ricevo dal Creatore. E come appena ricevo il suo aiuto, io raggiungo l'equilibrio. Quando spingo via e attrago. Mediante questo processo arriva la guarigione dentro l'essere. Ogni desiderio deve essere corretto. Non c'è nient'altro che mi può aiutare. Solo quando gestisco questo processo nel modo giusto, allora ricevo aiuto. Non pensare che questo processo si fermi quando, per esempio, uno è demente. Questo processo va avanti all'infinito. Siamo noi che guardiamo in modo diverso a questa gente, ma noi stiamo guardando all'essere esterno. Noi giudichiamo con i nostri cinque sensi. Naturalmente è lo stesso per una persona che si trova in coma. Non quando lo si tiene in vita in modo meccanico. Ad esempio, quando è già cerebralmente morto. Tieni sempre a mente le leggi dell'universo. È possibile che questa persona adempia le sue correzioni interiori, ma non quando lo si tiene in vita in modo meccanico. Questo sta solo interferendo, non l'alta forza. Ma quando qualcuno rimane in vita senza un aiuto meccanico, è ancora in grado di fare le sue correzioni? Ovviamente, è nostro desiderio aiutare gli altri. Ma questo non ha niente a che fare con l'interiore. È lo stesso quando si riceve un'iniezione, così la sua vita fluttua via, la porta via e trascura la sua correzione. L'obiettivo del creatore e sta portando via la possibilità di compiere il lavoro che deve fare. Il risultato è deve ritornare ancora di nuovo perché ha fallito il suo lavoro. Gli uomini non possono allontanarsi dalla loro miseria. Miseria, sofferenza è una cosa positiva. Fa parte della correzione. Solo perché uno è così ignorante, non è in grado di reagire in tempo. È la sua ignoranza che uno non vede il segno. Solo tu sei responsabile delle tue azioni. Dipende da te come osservi. Nessuno ti fa male se lo guardi nel modo giusto. Ma quando pensi che lui ti sta facendo del male, allora hai solo bisogno di correzione e nella tua osservanza. Non ha niente a che fare con l'altro. Sai, si cercano scuse per non dover cambiare i loro atteggiamenti. Frena con i tuoi atteggiamenti e ancora con il momento di rilassamento. Non hai tempo per il relax. Quando ti tieni occupato con la vera spiritualità, hai sempre del lavoro da fare. Quando ti rilassi, porti il tuo essere esterno al rilassamento, ma l'interiore ha sempre del lavoro da fare, fino al momento in cui il Creatore ti ha penetrato completamente. Non sforzarti per i nomi cabalistici. Porta questo messaggio dentro di te, nella tua propria lingua. Quindi, possono aiutarti e tu puoi trasmettere la Kabbalah agli altri. La Kabbalah significa ricevere i punti di forza. È tutto riguardo il ricevimento dei punti di forza. Credi in questo e abbi fede. Un cabalista dipende dalla sua forza interiore. Lui si aiuta dall'interno. La Kabbalah ti sta aiutando così, ora puoi andare avanti dall'interno. Come? Attraverso le azioni interiori tu inciti ai miracoli del Creatore. Un miracolo non è qualcosa di spontaneo. Sei tu, per mezzo del tuo atteggiamento, stimoli i miracoli. Non puoi comprarlo. Sei tu che devi fare il lavoro. E questo è quello che ti voglio imparare. In nessun altro posto puoi trovare questo, nessuna religione o scienza non ti diranno questo. Non esiste uno strumento per liberare una persona umana. Solo gli uomini possono liberarsi. I miracoli accadono dentro di te. Vengono da dentro. Questo è quello che hanno fatto tutti i grandi saggi. Da loro stessi si sono corretti e da loro stessi resi disponibili. Prima loro stessi si sono purificati a casa seduto sotto la soffitta. Si sono fatti piccoli per l'alto, andarono nel deserto e tornarono e poterono fare miracoli. Altri pensarono che fosse un miracolo, ma era la loro forza, la loro purificazione, ciò che vediamo. Guarda sempre a queste storie con un occhio spirituale. Mai letterale. Non è accaduto in modo fisico. Quando lo guardi in modo letterale, stai guardando con il tuo essere esterno, non con l'essere interno. Ricorda questo. Questa generazione è matura per raccogliere i frutti di tutte le correzioni che sono state fatte in migliaia di anni. E abbiamo fatto queste correzioni. Non la persona santa, ma noi esseri comuni. Dalla nostra generazione in poi accadrà. Per chiunque non interessa la religione che hai, o chi ho, o chi o cosa sei, ognuno di noi sarà guarito quando lavori su te stesso, anche mentre stai leggendo questo. Non quando lavori all'esterno. Ricorda che è solo un gioco. Non c'è nessuno che possa aiutarti, nessun guaritore o altro. Perché no? Perché no? Perché gli stai mostrando la tua piccolezza e sei ancora un partecipante al gioco. Sì o no nello spirituale. Noi viviamo nei Paesi Bassi e qui si parla del modello Polder, vale a dire un piccolo bit di questo e un po' di quello. Non nello spirituale. Nello spirituale c'è assoluta interezza. È impossibile essere in due posti nello stesso tempo. Prima c'è la separazione per vedere tutti gli aspetti. Sfaccettature della realtà. e in seguito puoi unirli. Non c'è nessun altro accanto a lui, e poi da vedere. Sei tu che devi fare i collegamenti con l'alto. All'inizio sembra molto controverso, ma non appena vieni in relazione con l'alto, ci sarà anche l'unità. Poi vedi la forza, ricevi la forza per sperimentare che non c'è nessuno altro accanto alla forza creatrice. Ora puoi vedere da un livello superiore, finché rimani su un livello inferiore, vedi varietà, ma al livello più alto vedi l'interezza. Per prima cosa vedi le forze inferiori, il bene e il male, sinistra e destra nella tua percezione. Ma quando ti attacchi alle forze superiori, è come una dimensione extra nella tua osservazione, nella tua consapevolezza. Prima c'è dualità, ma dopo c'è integrità. Nulla scompare nello spirituale. Quando hai raggiunto l'interezza, un'altra dualità avanza e questo va avanti e avanti finché non hai fatto tutte le tue correzioni. In primo luogo c'è la dualità, la mano sinistra spingi via, così ora si può venire a completezza e attraverso questo interezza si può venire a una nuova osservazione, ma nella nuova osservazione di un livello più alto, ancora una volta si vedrà la dualità e si deve portare anche questa dualità nell'unicità. Si tratta di più e meno. Hai bisogno di questo per sperimentare, solo così puoi crescere. Questo è lo strumento che ti serve e sembra così semplice. La maggior parte degli insegnanti parlano di questo, ma la verità e la falsità non molto vicine tra loro. È molto difficile distinguere. Ci sono tre aspetti, tre strutture nel nostro attuale. Il lato sinistro spinge via, il lato destro attrae e la via di mezzo. Ognuno di noi prova a scegliere, ma è il creatore stesso a fare la via di mezzo. E questo accade solo quando passi nel processo di sinistra e di destra. Vieni a questa comprensione a lavorarci. Correggi il tuo lato sinistro e il creatore farà la via di mezzo. Ma non fare questo con il tuo intelletto. Il tuo intelletto non ti porterà da nessuna parte. La via di mezzo è la risultante dell'alta luce. Non pensare di essere tu quello che sta facendo una scelta o chi può decidere quando pensi in questo modo. Sai di aver torto. La sinistra spinge via e la destra attrae. Qui hai del lavoro da fare. Questo è molto importante, cruciale. La luce è il risultato del tuo lavoro. Lavora duro e ti connetti con i quattro comandamenti. Ci sono tre condizioni in questo mondo. Ultimo bagliore è collegato con il lato sinistro. Prima del bagliore è collegato con il lato destro. L'ora collegata con la via di mezzo. Quando siamo arrivati a questa comprensione, vediamo che questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Qualunque cosa sia accaduta nella tua vita, è il passato. Quello che è successo appartiene al passato. Non fare mai un'associazione con il passato. Questa è la roccia d'incinto. Quando restiamo nel passato, quello che è successo in passato, lascialo lì. Non confrontarti con quello che è successo. Non dare alcuna attenzione al passato. Abbandonare il contatto con il passato. Se era buono o cattivo, non importa. Non entrare mai in contatto con il tuo passato. Questo è davvero uno scoglio. Ma quando provi a risolverlo, i miracoli accadranno. Non è magia, ma miracoli. Il punto è che è molto difficile, ma solo allora possono accadere i miracoli. Provalo, provalo, vivi secondo questo principio, così accadrà. Porta nella tua coscienza che l'ultimo bagliore è passato. Quando restiamo nel passato sentiremo lo attraverseremo di nuovo. Ognuno di noi ha peccato in questo. Sembra così facile, ma portalo nella tua mente. Dopo il bagliore, il passato è finito. Qualunque cosa accada nella tua vita è finito. Questa è una delle leggi più importanti dell'universo. Portalo nel tuo cuore. È facile, un gioco da bambini. Ma devi dirigerlo. Qualcosa viene dall'alto. Tu senti e lo porti nella tua memoria. Avere il desiderio di lasciare andare il passato. Cosa accadrà? L'esterno scomparirà e le tue vite interiori per sempre. Tutto quello che è successo è passato. Sperimenta l'ora. Sperimenta i quattro comandamenti che hai fatto con la forza creativa. Quello che è successo è finito. Non avere alcun bagliore in qualsiasi cosa tu stia attraversando. Impara a sperimentare l'ora. Quando mangi, godi. Quando si lavora, lavori. Abbi gioia nelle cose che fai mentre le stai facendo. Ma non dopo. Nel momento in cui passa, qualunque cosa fosse non parlare o pensare a questo proposito, non vivere nel bagliore. O è stato un buon momento o un brutto momento. Quando rimani nel passato, impoverisci la tua vita. Non nel bagliore, hai fatto qualcosa ed è finita. Vieni di nuovo nel momento d'ora, di ora. Avere sempre gioia nel momento, solo nell'ora devi sentire la gioia. Vivere nell'ora è anche una legge dell'universo. Goditi le cose mentre le stai facendo. Impara a vivere nell'ora. Quando si cade indietro nel bagliore, si vive nell'ombra della vita. Allora tu vivi con la tua immaginazione. Il problema è che si inizia a compensare, recitare. In un certo senso rimane parte della vostra vita. È il fardello della nostra vita. Non fare uso di esso. Se era positivo o negativo, non farlo. Vivi nel presente e tu andrai avanti così veloce che non puoi nemmeno immaginare. Cosa è successo in passato? Lascialo lì e non pensarci. Questo è ciò che il Creatore vuole da te. Il Creatore vuole che tu viva nell'ora, che ti diverti ora e non vivere nel passato. È il desiderio del Creatore. Vivi nell'ora, è la sua volontà. Quando tu sperimenti dopo il flusso, sai che esso è molto egoistico. È un'espressione dell'essere esterno. Sei nella storia. E la storia ti mostra che sei speciale, ma non è il desiderio del Creatore. Vivi ora. Questo è il suo desiderio. Qualunque cosa accada, è stato il suo desiderio. Vuoi cambiarlo? Vivi ora, ora. Carpe diem, vivere per il momento, è un verbo molto vecchio. Vivi ora. Quando vivi nel momento attuale, non peccherai. Questo è qualcosa che devi sperimentare. Quando vivi nell'ora, le forze impure non hanno presa su di te. Le forze impure significano che ogni cosa è qualsiasi cosa, è ciò che risucchia la tua energia. Solo quando rimani nel momento dell'ora non possono avere una presa su di te. Entrambi non hanno il prevalere. Quando tu stai guardando in avanti a qualcosa per provare l'esperienza, per esempio una vacanza, tu non vivi nell'ora attuale del momento. L'aspettativa ti dà forza, non è la forza del creatore. Puoi trovare il creatore solo nell'ora. Nel prevaliore non riesci a trovare il creatore. Le aspettative ti fanno andare avanti e in questo tu dai anche l'opportunità ai poteri impuri. Quando vivi nel passato, ti dispiace per qualcosa o qualcuno. Dai ai poteri impuri l'opportunità di succhiare via la tua energia. Quando spendi tutte le tue energie nella compassione, nei poteri impuri, non dai nulla al Creatore. I poteri impuri sono la tua negazione a Lui. Tu assegni certi poteri al passato, che è un potere impuro. Riporta dentro le memorie le quattro lettere Yud-Kei-Vav-Kei. Questo significa che era, è e sarà. Quando sei ancora seduto nel passato, ti separi dalla vera realtà. La vera realtà è da trovare solo nell'ora. Hai una mancanza. nella tua consapevolezza. Tu non vedi la vera realtà, ovunque i tuoi pensieri siano, su qualcosa di grande o qualcosa di male, non c'è osservazione del momento attuale e inoltre stai alimentando i poteri impuri. Questo sta portando via la tua energia e questo ti rende molto vulnerabile. La vera realtà è vivi nell'ora. La maggior parte di noi vive il 70% nel passato e il 30% nell'ora. Per esempio, se vivi la maggior parte del tempo nel passato, non puoi vedere la vera realtà. Questa è la radice di tutte le nostre malattie. Egli ci ha dato dall'alto il 100%, ma ce ne serviamo così poco e questo ci fa ammalare. Più rimani nell'ora, più vedrai la vera realtà, e la vera realtà è nel 100%. Non puoi cambiare nulla di questo. Non puoi vedere la vera realtà quando sei al, per esempio, 30%. Non trovarlo strano, la forza più alta deve colpire le tue nocche. Quando non vivi nel 100%, egli deve colpire le tue nocche, confrontalo con un padre o una madre che rimprovera il loro bambino e dargli uno schiaffo. Il creatore fa lo stesso con noi. A titolo di malattia o incidente o qualsiasi altra cosa. I punti di forza più elevati stanno cercando di portarti nel qui ed ora. Perché? Vuole mostrarti la vera realtà, il 100%. Più vivi nell'ora, più vedi la realtà e le forze impure rimangono fuori. Dipende solo da te, dalle tue osservazioni. Vivi nell'ora e hai il bagliore, non il pre-bagliore o il dopo-bagliore, solo l'ora bagliore. Vedi, questa è anche una legge dell'universo. Il creatore vuole che tu ne godi e ti diverti solo quando hai il bagliore al 100%. Allora hai l'energia e le forze impure non ti afferranno. Stai costruendo i tuoi punti di forza. Fai quello che devi fare. E quando è finito, non pensarci, non pensare, ho fatto la cosa giusta o era sbagliato. Non appena hai finito il lavoro, non pensarci. Quando puoi fare questo, l'alta forza ti farà la via di mezzo. Quando hai fatto qualcosa, non pensarci perché puoi. Con il tuo cervello inizia a valutare, calcola, non farlo. Quando smetti di farlo, avrai la valutazione più perfetta. Come? Quando smetti di valutare, il creatore inizia a valutare e lui ti porterà la giusta soluzione. Non sei il cervello o il tuo pensiero desideroso. Solo l'alta forza fa la linea di mezzo. Nessuno è perfetto. Tutti noi stiamo facendo questo errore, questo peccato. Ricorda questo. Quando hai fatto qualcosa, non pensarci. È il Creatore che valuta. E il nostro lavoro è lavorare sul lato destro e sul lato sinistro. Il Creatore fa la via di mezzo. Dobbiamo solo stare nel presente. E niente di più per il 100%. Cos'è il pre-bagliore? Ti aspetti qualcosa che si trova nel futuro, qualcosa che succederà dopo. Ad esempio, pensi ad un esame. Senti già il mal di testa. Perché questo? Tu togli le forze che ti sostengono e sei tu stesso a dare spazio alle forze impure, stai alimentando queste forze. Possiamo anche avere un pre-bagliore negativo. Qualunque siano i tuoi pensieri, non succederà. Sono solo ombre. Supponiamo che ti piaccia andare in vacanza in un paese lontano, ma hai paura di volare. Cosa succede? Sei già impegnato con il volo, smetti di farlo, vivi nell'ora. Visualizza che è il tuo primo volo, sperimenta il volo solo quando sali in aereo. Non pensarci prima. Questo ti dà un mal di testa o qualsiasi altra cosa che puoi sentire dolore. Facciamo tutti gli stessi errori. Noi pecciamo nel bene come nel male. Abbiamo paura per qualcosa che avverrà in futuro. Abbiamo paura per quello che è successo in passato. Dov'è la tua vita? Vivi ora, solo oggi puoi sentire la vita, non domani e non nel al di là. È il desiderio del Creatore che tu vivi ora. Non dico che non c'è nulla nell'aldilà, c'è anche la vita, assolutamente. Ma questo è per dopo, quando dovrei dirti che ora sarà filosofia. La filosofia è molto vicina alla Kabbalah. Chi è interessato alla filosofia è anche un ricercatore. Non puoi paragonarlo a colui che è una persona religiosa. Il filosofo è molto vicino allo spirituale. Loro stanno guardando nel modo molto difficile. Loro leggono tutti i tipi di libri. Io ho fatto lo stesso, ho pensato di poter trovare lo spirituale in modo intellettuale. Ma non ho ricevuto nessuna forza. Ora è diverso. La Kabbalah mi dà forza. Non pensare di aver perso tempo per la filosofia. Vedilo come una preparazione, ma solo le parole non sono sufficienti. Quando penso già a cosa potrebbe accadere in futuro. Io sento già il dolore. Ho paura di ciò che potrebbe accadere. Quindi sto anticipando. Io creo un'ombra di vita. In un certo modo ti stai togliendo la vita. Quando hai paura per il futuro, stai portando via la tua vita. Ed è lo stesso quando sento la paura provenire da ciò che è accaduto in passato. Sto proprio portando via la mia vita. Questo è un suicidio, solo differente. Ogni volta che hai pre-bagliore o dopo bagliore. Entrambi ti stanno portando via la vita. Puoi già pensare al fine settimana, andare a una festa, fare cose carine. Tutte queste aspettative ti danno la sensazione di essere vivi. Niente deve darvi forza nella vita, solo il momento presente. Quando si è nel momento presente, non devi avere paura o sentire la paura. Solo vivendo nell'ora puoi arrivare alla comprensione di ciò che accade senza essere pauroso o sentire paura. L'odio è anche qualcosa che ti viene in mente quando sei nel pre-bagliore o nel dopo-bagliore. Sperimenti questo e quello. E inizi a calcolare con il tuo intelletto e sai che il tuo intelletto dice sempre: è sbagliato? Fermati con questo. Impara a vivere nell'ora. Non è facile. Il nostro intelletto ci parla e dice: vivi del momento, ma è il nostro intelletto che ci parla. Tu sei colui che deve realizzare questo, sperimentarlo. Solo allora tu vivi nell'ora e questo è chiamato vita. Più tardi arriveremo ad una meditazione cabalistica, ma prima di farlo saprai già di cosa si tratta. La meditazione è qualcosa che devi fare in anticipo. Prima che ti accada qualcosa, fare tutte le cose, fare tutte le tue cose in modo meditativo significa che la tua concentrazione è completamente in ciò che stai facendo. Quindi stai vivendo nell'ora. Quando fai qualcosa, fallo al 100%. Appena i tuoi pensieri saranno altrove, non vivrai più. Siete quindi nella linea destra o nella linea di sinistra? I vostri pensieri sono nel dopo bagliore o nel pre bagliore? Dovete stare nel mezzo, nell'ora. Questo è ciò che lo Zohar si sta dicendo. Nessun'altra cosa. Lo Zohar sta parlando di questo argomento. Ci sono così tanti livelli e ogni livello ha a che fare con la linea destra o la linea sinistra. Lo Zohar si sta esprimendo così tanto perché ci sono così tanti livelli, così tante elevazioni. E di tutte loro si parla nello Zohar. E mentre stai leggendo tutto questo, queste diverse sfaccettature toccano il tuo interiore. Ma non toccare lo Zohar senza alcuna preparazione. In qualunque lingua può essere. Usa solo lo Zohar nel linguaggio ebraico. Sebbene tu non capisca una parola della lingua ebraica, leggere una frase nel libro ti aiuterà estremamente. In un modo o nell'altro, fa qualcosa dentro di te, come te lo dirò più tardi. Per ora il tuo lavoro è rimanere nell'ora, vivere e sperimentare oggi questo momento. Quanto difficile possa essere tutto ciò che puoi aver sperimentato in passato. Finché sei seduto nel passato e hai pensieri su tuo padre o tua madre che hanno fatto cose terribili, sii consapevole che non sei in contatto con il Creatore. Ci sono persone che dicono di aver visto la luce e allo stesso tempo ti raccontano il loro passato. È impossibile. È impossibile. Nessuna luce può essere vista finché sei nel passato o nel futuro. Ricorda questo. Un cabalista non parla nel passato, come è la mia sensazione in questo momento, sono affari miei. Non devo dirlo a un'altra persona, le persone che lo fanno si tengono occupate con il passato. Certo che puoi farlo. Non vieto una cosa che Dio proibisce, ma questo vuoi aumentare l'andamento. Ascolta e leggi attentamente quello che ti sto dicendo. Quando vivi nel passato, stai dando la tua forza al passato. E non stai vivendo nell'ora, non importa quando lo stai facendo, seduto nel dopo bagliore o seduto nel pre bagliore, non stai vivendo nell'ora. La vita esiste dal momento, da momento a momento. Non c'è passato, non c'è futuro, solo il momento dell'ora. Pensa molto chiaramente a questo. Cerca di diventare cosciente di questo. Cos'è il peccato? Il peccato significa che sei seduto nel passato. State sempre allerta. Siate consapevoli e molto consapevoli di non volare via verso il passato o qualsiasi altro fantasma. Stai attento anche quando stai guardando la televisione o in uno stato di rilassamento. Sii molto selettivo in quello che stai facendo. Non mangiare troppo al fast food. Stai lavorando su te stesso. Lascia il fast food per quello che è. Anche in questo devi essere attento, essere sempre vigile. Consapevole, certamente puoi guardare la televisione o fare altre cose, non ti proibisco nulla, ma devi farlo in un modo molto attento e consapevole. C'è così tanto da scoprire dentro di te, perciò le cose che sono passate non pensarci più. Domanda: come è la comunicazione? La comunicazione avanti e indietro con il nostro mondo? Ti ho già detto com'è la struttura degli uomini. L'Ein Sof, la luce infinita, è dentro di noi, ma questa luce non è nostra, è del Creatore. Questa luce infinita è una sorta di apertura dentro di noi, solo che uno non la sente, ma esiste. Il nostro lavoro è sentire sempre più questa apertura. Solo allora la luce può arrivare a noi. Il nostro salvataggio è all'interno di questa apertura. Nella luce ciò che ci arriva e ci penetra strato per strato fino a raggiungere lo strato dell'essere interiore. Quindi possiamo sperimentare. Cosa sperimentiamo? Il bene assoluto, L'esperienza dell'essere interiore è il bene assoluto. Lo strato successivo è lo strato del bene e del male. La vera relazione con il bene è il male. Quando entri in questa area con la tua percezione, sperimenti parzialmente il buono e parzialmente il cattivo. E l'ultimo strato è lo strato dell'essere esterno. Non c'è male per ripetere le parole. Dall'alto, colui che non ha riguardo con l'interno non è visto dall'alto. Lui vive in questo mondo secondo i desideri di questo mondo. Cosa intendo con questo? Non parlo mai della carne, della persona che mangia e beve, ma parlo dell'essere che sperimenta solo questi desideri. Tutte le altre aree non esistono per lui, non può sentirle. È molto importante capire che l'essere esterno ha uno strato esterno e uno strato interno. Lo strato esterno è lo strato in cui sperimenta il mondo materiale. E c'è una parte che sperimenta qualcosa di più, per esempio la religione. Qualunque sia questa religione, qualunque sia la sua visione del mondo, della sua cultura, questa è la forma della sua percezione interiore, ma è all'interno dell'essere esterno. Sente tutti i tipi di sentimenti sensuali. E in questo vediamo la religione e la filosofia, le comprensioni terrene dell'essere umano. Questo è l'essere esterno, vive con i suoi cinque sensi. Il prossimo passo è l'osservazione. Ora inizia a scoprire il bene e il male. Anche nella religione vede il bene e il male. La religione è situata nella storia e nella storia è anche l'esperienza del bene e del male perché è molto vicino all'area del vero bene e del male. Ogni creatura ha un esterno. La pelle esterna dove attraverso lui scopre tutto, i suoi bisogni inferiori degli animali e tutti i suoi desideri infantili. Quando uno si sviluppa, inizia la sua ricerca e la religione gli dice come vivere, ma non è ancora la sua. Vive ancora con i suoi cinque sensi, ma presto si alza un po' oltre, diciamo, al lato interiore dell'essere esterno che inizia ad osservare il bene e il male. La religione stessa è dentro la storia, ma ci sta anche raccontando il bene e il male. Perché? Perché la religione è molto vicina all'area del vero bene e del male. La differenza è che sperimenta l'area del bene e del male, ma non è sua, appartiene ancora all'essere esterno. Il vero essere interiore inizia dal punto del vero bene e del male, quindi inizia a realizzare. E questa è l'area in cui stiamo lavorando. Nella nostra lezione parliamo e parliamo solo dell'essere interiore, ma sempre più affineremo. Ovviamente l'inizio deve essere semplice, più grezzo, ma in seguito andremo nella raffinazione. Lui o lei che sta venendo al nostro studio, qui passa attraverso le sue correzioni, sperimenta che tutto è buono. Il pensare desideroso è scomparso. solamente il vero bene e la... Allora potresti chiederti qual è il lavoro che devo fare. Ho già lavorato con questo, ma nessuno di noi è penetrato in questa area per il 100%. E questo è il nostro sforzo, il nostro obiettivo, l'area del vero bene e del male, l'area che è all'interno di ogni creatura. Colui che vive e lavora nell'area del vero e bene e del male è il vero essere. Si chiama uomo, uomo con un maiuscolo U. Uomo. Non l'essere interiore dell'essere esterno. Loro sono come angeli, i grandi cabalisti hanno raggiunto questa zona e ci stiamo sforzando per raggiungere quest'area. Quando sei arrivato nel vero essere interiore al 100%, ti sei avvicinato al Creatore così vicino. Allora non c'è più nessuna correzione, ma questo non è il soggetto del nostro corso. Siamo impegnati a penetrare lo strato esterno. Sta a noi penetrare questo strato e sono passati quasi 6.000 anni. 6.000 anni. Quindi ci teniamo impegnati con questo argomento per trasformare il resto del male in bene. Questa è l'area che dobbiamo scoprire. Dobbiamo scoprire cosa è ancora in questa zona, così possiamo trasformare il male nel bene. E tutti i pezzi che abbiamo trasformato nel bene sono aggiunti all'essere interiore. Non c'è scomparsa nello spirituale, facciamo l'area del bene più grande e più grande. In ognuno di noi risplende la luce infinita, Ein Sof, o il Signore, o il Creatore, la forza creatrice. Egli brilla sempre in noi e lo sperimentiamo o noi, o no, o no. Potresti peccare o mangiare cibo, spazzatura. La luce splende sempre dentro di te. Il problema è che sperimentiamo luce sempre meno. Sembra che il Creatore ci sta lasciando, ma ci manca la sua esperienza. Sperimentiamo il nostro essere esteriore. Questo è il nostro peccato, e a causa di questo peccato veniamo sempre più lontano dalla luce. Qual è la soluzione? Lavorare su te stesso, per recuperare tutti i sentimenti che hai perso, per costruire una nuova struttura. Ogni bambino, ogni neonato è come l'essere esterno. Più tardi sentirà la sofferenza, sarà ferito, ma nei suoi primi momenti da bambino, ha solo il desiderio di mangiare e bere. Lui non sa niente. In un certo senso, un neonato è puro egoismo. Più tardi inizia a sentire attraverso questa sensazione, può avvicinarsi all'area del vero bene e del male, se è il desiderio del Creatore. Cosa voglio dire con questo? È il Creatore che gli dà il desiderio. E questo desiderio è la sua luce. È il Creatore stesso che dà la spinta. Prima vediamo la venuta in esistenza del punto del cuore, nel cuore, e il suo essere interiore comincia a parlare con lui. Scopre le carenze in se stesso. Questa è la nascita del punto nel cuore. E più tardi arriva il momento in cui scoprirà che tutte le strutture sono dentro di lui. Tutto dipende dalla tua scoperta interiore. Hai già raggiunto la sua volontà, la perfezione. Il potenziale è già presente in ogni essere umano. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per scoprire e sentire tutti questi strati e per portarli alla zona del vero bene e del male, per portarlo al vero essere interiore. L'essere esterno vede solo il suo io, non vede qualcosa di interiore, nessuna pietà, eccetera. Si sente innocente, come un bambino, perché vede solo dall'essere esterno, non sente nessuna cosa dentro di sé, non può toccare la misericordia, perché la misericordia è dentro, è in Sof, nella luce infinita. Qualità in accordo, devo mettermi d'accordo con la qualità interiori. Solo allora posso vedere la misericordia. Devo portare me stesso in accordo con le qualità. La luce è misericordia. Devo portare me stesso in conformità con la sua misericordia. Agli uomini manca il bene intrinseco. Tutto il bene arriva dall'accordo nelle qualità. Tutto viene dalla luce in Sof, e devo portare me stesso in conformità. Ho tre strati dentro me stesso. Il primo strato è lo strato di Ein Sof, la luce infinita. Il livello successivo è lo strato dell'essere interiore, lo strato in cui puoi percepire il vero bene e il male. È l'area della trasformazione del male nel bene, e attraverso questo puoi avvicinarti all'Ein Sof. Ma allo stesso tempo questo è il campo di battaglia dentro di te. Costantemente stai lavorando in quest'area. Questo è il nostro posto dove lavorare, scoprire il male e portarlo al bene. E attraverso questo lavoro si lavora sulla sua estensione interiore. O uno lavora sempre più nell'esterno e più espande ulteriormente il male, ed ulteriormente l'essere esterno. Tutto è d'accordo con la qualità. Qual è il male? L'attributo del male è il desiderio di ricevere per il suo proprio bene. Questo è l'attributo del male, egoismo puro, la persona egoista, colui che vuole solo ricevere per il proprio bene. Guarda che non deve necessariamente essere un criminale. Tutte le persone che vogliono ricevere solo per il loro bene sono impegnate con il male, è l'essere esterno e lavora solo per se stesso. L'essere interiore entra in contatto con il suo interiore. L'essere esterno entra in contatto con il suo esterno. E lavoreremo per portare tutto in accordo nella qualità. Buona fortuna.